i soldi necessari per comprare una batteria e intraprendere una faida. Eccoci, ci siamo arrivati un po' lunghi, ma ci siamo come sempre, come tutti i lunedì. Questa è Ragnar Paisa e saremo con voi fino alle 22:30 circa. Oggi siamo proprio, non in versione ridotta, in versione dimezzata, micro. In versione micro. Io e Colossius presenti. Tommy in quel di Istanbul e lo salutiamo. Biga non pervenuto. 0557399933 è il nostro numero di telefono e info.ragnarpaisa@gmail.net è la nostra mail. Oggi facciamo un po' una forma un po' più ibrida, non si sa quello che succede. Vi suoniamo un po' di robe nuove uscite e poi come viene viene, eh? Sì, ci spariamo in apertura un po' del nuovo disco dei Boards of Canada, poi magari dopo ne parleremo così. Esatto. Per iniziare chill. Esatto. Bene, basta parlare, vi lasciamo alla musica. Parte Colossius, questa è Ragnar Paisa. Turn it up while I'm counting. One. E via, si vola, eh? Si vola, qui si va, cioè, si va proprio, si basta chiudere gli occhi. Questo pezzo specialmente, secondo me, così detta a freddo, anche perché l'ho ascoltato giusto 2 o 3 volte l'album, però così a freddo ti direi che per me questo è il pezzo migliore. Secondo me ci sono un bel po' di idee belle, di spunti molto cinematografici, sì, molto come al solito, chiaramente. Come al solito, ma questa volta ancora di più, perché ci sono molte più parti ambient rispetto, sì, ai dischi precedenti, esatto, per chi non l'avesse sentite, e sono molto interessanti, sono ancora più, diciamo, retro come, esatto, come atmosfere, nonostante che sia comunque un disco assolutamente di elettronica, e anche assolutamente di elettronica di, diciamo, di alto livello, di gusto di 90, sì, certo, nonostante che, appunto, per quanto suoni gusto 90, l'hanno inventato loro, cioè, nel, sì, senso, si sente tanta roba a Boards of Canada e sembra un po' qualcosa di già sentito, quando in realtà, ecco, tutto quello che uno ha sentito è perché è ci quello, sono stati Boards of Canada. È quello che è venuto dopo che è già sentito, no, per un certo tipo di suono, certo, ovviamente, per un certo, certo, tipo di sound elettronico. Ricordiamo che i Boards of Canada sono questo gruppo di fratelli scozzesi che nasce alla fine degli anni '80 come collettivo di musicisti, e che però rimane, viene ridotto a soli ai soli 2 fratelli, Michael e Marcus, che nel '95 pubblicarono il loro primo disco, Tuoism, che è il loro primo album ufficiale, anche se poi in seguito sono uscite tutta una serie di registrazioni precedenti. Sì, registrazioni, perché credo che loro facessero anche, almeno in inizio, molte cose su cassetta, su tape, esatto, su formati minori, diciamo. Poi Tuoism penso sia stato il primo disco, il diciamo, primo disco ufficiale, tra virgolette, sì, grande pubblico, nel senso di distribuzione, esatto, internazionale. E è stato poi nel 98 con l'album su Warp e Scam che hanno raggiunto un po' il successo, fino poi a il penultimo album, quello prima di questo, tralasciando gli EP, che è del 2005, The Campfire at Phase, e appunto oggi è uscito Tomorrow's Harvest, che è questo disco del quale vi abbiamo fatto sentire un po' di tracce. È curiosa la storia, che ancora devo capire bene, perché purtroppo non ho avuto tempo per addentrarmici dentro, però per il dopo anni di silenzio, perché nel 2005 è stata l'ultima volta che si è sentito parlare dei Boards of Canada, nonostante sia un gruppo fondamentale, appunto, come dicevi, per l'elettronica, cioè è un gruppo che è stato veramente di ispirazione per un sacco di gruppi che sono venuti dopo di loro. E per il Record Store Day è comparso questo vinile stampato in sole 2 copie, una in Inghilterra ed una in America, con un titolo crittografato. Poi sono uscite tutta una serie di codici, e con questi codici si poteva andare su un sito, inserirli, insomma, proprio una roba quasi da NASA, e inserito questo codice veniva fuori un video che appunto annunciava il disco nuovo dei Boards of Canada, che è questo. È tutto proprio molto in stile Boards of Canada, cioè se vi sentite il disco è proprio un mondo a parte. Assolutamente. Comunque sono quei dischi che fanno quei gruppi che fanno veramente bene alla musica, perché si elevano proprio, rimangono da una, mentre esce tutta una masnada di roba mainstream o non, loro sono proprio fedeli alla linea è proprio su un altro pianeta, proprio non sono categorici per niente, ecco. Bellissimo, io lo consiglio veramente di ascoltare Tomorrow's Harvest, se non sciogli lingua, che è uscito oggi su Warp, andatevelo a cercare. Bene, continuiamo con un altro po' di novità e di cose uscite più recenti, e ci risentiamo fra poco. We'll be right back. John, I'm calling John. Oh, Francisco. Che mi chiama rime commentando bango, batti da contrabbando, diffondo dal velluto fino a Orlando, vento a vita come Nando, collato radunando campione, per indole di mare prima poi custodia e sindrome, è l'unico che ho e adesso ce lo smezziamo, come no, come lo vorresti un bel po', ma come ti invade, mica tu sei mio padre, ma dimmi la nebbia che prendi prima di venire al mare, sgomite come ti senti che per la notte non t'addormenti, con i custodi e tu fai il timido, ma ascolti e godi come minimo, sei sazio con noi o sei in scazzo con noi, Basilio, sto MC sott'olio, li ofilizzo il tuo mobilio, sto figlio secco se lo mando in esilio, pompiglio, qualche tizio col dizionario, sostengo un comizio, strizzo pose del belle che c'è, chi sta ancora all'inizio, frizzo schizzo penalizzo, smezzo lezzo e vocalizzo, hai sbagliato indirizzo e inizio, quindi il seguito è che ti manca il fegato, levati il karateggi che sembri un paraplegico, m'han detto che sei interdetto quanto sei strategico, confermi, concordi, cose che manca ricordi, che senza darsi degli ordini se non coordini bordi, qui da noi di recente in disco vanno solo androidi, meganoidi, strappati da steroidi e deltoidi, è un altro automa che si clona, una nuova entrata già in uscita, se si classifica la mia sigla, due F gemelle sopra una riga, Fabri fibra, joint del peso netto di una libra, non canto con te le gem, sai perché porti sfiga. Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down down, down, down, and let's all get down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, and let's all get down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, and let's all get down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, and let's all get down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, and let's all get hallucination generation. The experimenters who try anything, stopping only at the outer edge of nowhere. Eccoci. Senti che loop bomba. L'ho fatto proprio ta-ta live così. Questo che state sentendo è tratto dall'ultimo disco di Dexter, che è un produttore tedesco. Dal suono magari non si sentirebbe mai che è tedesco, però se lo guardate in faccia c'ha proprio la classica faccia da tedesco, biondo, con i capelli mossi, lunghi e Carrie Wurst in mano. Esatto, Carrie Wurst in mano. È uscito un po' di tempo fa su NPM, su Melting Pot Music, che è una grande label, indie label di beatmaker, alla quale fa parte anche Brank, Sinatra e Fidmella, che è italiano appunto, però vive in Austria. E niente, andatevelo a cercare e seguite un po' anche tutti gli artisti, Saf Daddy e compagnia bella della Melting Pot Music, perché ne vale veramente la pena. Sono veramente una scena di beatmaker notevolissima, cioè già da anni loro si fanno le battle di beatmaker, proprio tanto di palco e grande pubblico, quindi cioè, sono veramente avanti. In apertura di questo set ho suonato due brani dal prossimo 12 pollici che uscirà su Planet Mu, precisamente il 17 giugno, e sono due brani di questo gruppo che si chiama John Wizards, che sono un gruppo sudafricano. È una credo sia la prima uscita che fanno, proprio diciamo un attimino più dignitosa forse. Ci sono in questo 12 ci sono anche un remix di Ital Tech e uno di LV, quindi comunque si rimane sempre in casa Planet Mu. Mentre ho suonato anche un brano dal prossimo 12 pollici di Iconica, che uscirà su Hyperdub l'8 di luglio, ed è diciamo la preview del suo futuro disco, che si chiamerà Aerotropolis, ed è la prima volta che Iconica fa una traccia con una voce. E niente, tutto qua. Non ho più niente da dire, ho finito gli appunti. Bene. Senti, ci si spara un po' di back un po' di dischi così random, e poi magari ci risentiamo tra un po'. Vai. gossip. I stay ripping the nigga tracks out, hotter than wax, yo. So tell me why you act out. Yo, I'm max cause I make a nigga black till it's time to relax, yo. Until you won't collapse out. Fuck it, it's hardly that. The guard is getting tired, you don't wanna say that. Can catch a cardiac relapse, nigga. Why? The guard is back, so you don't want nothing no matter how you react. Blows you black and blue, your front and your back. Choose whatever the route that you choose. Wounds so horrendous, forensic to get to analyze and the bruise. Blows be never coming singular, they coming in twos. My crew be starting the ruckus once I get them the cues. The blast from the triggers that'll bust from all of my dudes. Me the shit that make you niggas run up out of your shoes. We make you back down, having the facts down. With all the noise you be making, you can even see the shit on the news. Hold up, so you don't know nothing about it. Turn me up some. Yo, the heat from off the street will burn you up some. Yo, the shit I'm sure to spit will hurt you up some. I'm saying, but you don't know nothing about it. Turn me up some. Yo, now drink a fifth of yak and hurl it up some. Yo, just bang it in the truck and turn it up some. I'm saying, now watch me get a nigga fast like them bitches with no ass. You corny niggas low class. Yo, I flash on them, then I go and smash couple holes and then splash on them. Flicking a little ash on them. From the blunt we smoking, keep a chick choking. Got them open with flows, I suppose. And make them soak in their clothes. Keep the shit that make them sniff and make them open their nose. Got them fucked up, stuck just like they striking the pose. Yo, we gaining weight. Nah, it's just my pocket to swole. From keeping niggas while they driving, smacking the pole. A 1-2, yeah. See, perhaps while I hold me a stack, hating niggas plot, holding me back. Yo, you fool niggas plotting against the guard, best be holding the strap. Cause how we coming through, you know it's a rap. Moving the crew, a gorilla dude, you know when to clap. I'll blow some shit from off of the earth or the face of the map. Yo, so take that. Once we give it to you, ain't no faking a jack. It's funny how you find your face in a trap. Little bitch, nigga fronting like he ready to scrap. You better off acting pussy, trying to give me a dap. Staying focused on fulfilling a dream. The way we spark up and spit a fire to flame, probably killing your team. Fuck it, see now we harbor helicopters. Turn this shit up, if you and your peoples ain't hearing me proper, I'm saying, so you don't know nothing about it. Turn me up some. Yo, the heat from off the street will burn you up some. Yo, this shit I'm sure to spit will hurt you up some. I'm saying, but you don't know nothing about it. Turn me up some. Yo, now drink a fifth of yak and hurl it up some. Yo, just bang it in the truck and turn it up some. I'm saying. Yeah. Bust a bust down. Flip mode now. I know what y'all feel like doing. Go ahead and crash your whip in the fucking wall. It's cool. Niggas. We get Benzette. For sure, spit raw, get more, about to kick in the door. Dick sore, split whores till they shit on the floor. Come on, click more, sick from when you used to see us before. Shit, kill a nigga quick, niggas know my rapport. Keep workers on the strip that be ready for war. Brick or flip a little quicker if they sit in the store. Rip maybe till they drop and they shit in the drawers. Shit crazy when I pop and I'm gripping the floor. Thick bitches in the spot, watch them strip for the sport. Spit vicious for the block, yeah, we're swinging the torch. Stick niggas for they shit, thank them for they support. Quick. Nigga better quit snitching down at the court. Trick sack a little slick and try to go in my thoughts. Cause we stacking like we rich and we holding the fort. This time we had to bring it, guess what we brought? The hottest shit to bang from LA to the streets of New York. All my people get drunk, get high. What up? Get money, get rich, get fly. What up? Get stupid, get busy, get live. What up? Jump all in your whip, turn the key and drive. What up? Come make on. You know, yeah, we gon' make about five. What up? We speak the truth and we ain't talking no jive. What up? Speaking to the streets and everybody with it. What up? Once again, you know we only come to get it. What up? I stay wicked, now I'm back on the strip. Like I went on a vacation and I'm back from my trip. Enough radio rotation like I'm sailing a ship. I'm in the D circle of block, busy trailing my click. Truck packed full of niggas with the strap and the whip. Get the gat out of the stash, put it back on my hip. Gat butt you in the face, splitting fat in your lip. Blood hit the floor louder than a clap when it drip. I credit your name with bulletry, the back of the script. My victim's initials engraved on the back of the clip. Chicks love the way we roll, how the movement is thick. So official that my name's on the back of your bitch. Come on. Pay triple for the name on the back of the stitch. Name like the whole city, now I'm changing the pitch. I kick back. questa è sempre la Gran Paisa, eh? Siamo con voi fino alle 22:30 circa. Un pezzo a testa, uno io, uno Colossius. Back to back alla vecchia, eh? Tutto improvvisato come viene viene. Questa è mia, ora sta Colossius. Rimanete con noi fino alle 22:30, mi raccomando. Try fight for living famous. Bushing shots live is dangerous at midnight. We do it right in clear blue light. The trife life, living rough, wearing handcuffs like bracelets. 25 of life, we faced it. Got on the run and got wasted. Mad agony, having me more vexed. Got me pulling out texts on opposite sex. The cream got me fiend for massive bill schemes. Like doing drive-bys and stretch limousines. I got tons of guns. My niggas on the run, packed the nickel-plated ones. Get the cheddar, however done, cause niggas got dreams. Claiming king with the drug sling, got they brain train just to sling cocaine continuously. Seriously, my brain blunted. The lie done it. We making hundreds, that's what we wanted. To see my ill mean team singing cream. The infamous coming out of Queens. Yo, check it. Yo, it's the P, me and NYD. We put the cheddar together so we can double the OZs and grow like some family trees and beanstalks. Some hustlers, naturally born with street smarts. Show karate, it's you and Gotti. Y'all lift the weight, me and Noy. Attempt star it down on the plate. The mob niggas living wild outside of New York State. The five gates for niggas shook, just let them shake while a coke bake. Chef trip, cook a bowler over the shoulder. Regundas with the hand and pothole. The soloist get rolled over, rapping Noy taking over. You crossed over, then you got bucked in October. November, December, came out the hospital keyed up. Paralyzed from your feet up, now slow your speed up. So recognize and realize I'm not the nigga lie. On the side of me, prodigy, on the strength of who he be. So recognize and realize I'm not the nigga lie. The B-I-G, N-O-I-D, he rip it constantly. I stay cool and cautious with extra sources. My non-tourist hit boxes, lieutenants, whoever's in it. Once the main man drop, I got it locked. To take it on, why not? Don't let that nigga know he get the drop. I'm coming steady, heavy, ready to murder. Pulling triggers, soon to be famous, dangerous type of nigga. I'm type crucifix, fist definitely true to this. The natural born hustle, liver says Noy finessing it. Used to hustling, tussling, busting niggas wide open. No joking, like Rakim, you must be smoking. To fuck around with this, you try to compare, you didn't hear that nigga Noy is extraordinary. Nigga, what? Pioneer, this extraordinary rap. I'm a white team, I'm on style. Gotta clap at your rap show. We formerly just used to be like some politics. Villain hold a mic like he's mean and his tummy hurt in a clean pair of ripped jeans and a bummy shirt. Wondering would you clap your hands if he was friendly? Dapper Dan dipped and pretend to be Fendi and gold selling. No telling, slap a fan hand down, tell him no yelling. Doom all capitals, no trick spelling. Got what it take to get it through your thick melon. Fresh witty city skits when he get wrecked. Pretty MCs catch titty fits. Told him call the cops, just don't hold your breath for the ball to drop. Better yet, hold on to your halter top. Kept reppin', steppin' in hotter. Ignoring pigs like pigs, top shotter. Survivor of a live crew, not out to jive you. It stings when he laugh, when he had the bank drive through. Wildin', get me every red penny. Sold a lonely only child, the imaginary enemy. When he sees the mask and the microphone gizmo, he's the broke host, this is like his own quiz show. Just go out to all my brothers doing long bids and sisters who got brothers being fathers to the wrong kids. Stay strong and ride like the funky flute. Won't find the villain in the street inside no monkey suit. Or either at the bar in no gorilla bra, nor Raceway Park scoring on no silly car. Ask the stranger, he knows who you really are. Behind the mask, face stay dark, no boring Willie Star. Gleaming, dreaming, screaming, he'll be off the heezy soon. Cunning live rats drive at your steamy greasy spoon. In participating places, tip your waitresses. A surefire way to wire trip the matrices. Skip your laces, all black tennis miniature. Ball stack, gall, tall pack, Guinness minister. Tussle the hustle, cut your dank with dirt. Won't be in the club in no muscle tank shirt. You can find him in the pub with the grub stain, chugging on a small tub of pain to his bug brain. Sane, some say he plumb crazy, amazed at how he still get paid but dumb lazy. That's for him to know and for you to guess. Won't be caught in a suit vest and no computer desk. A suede front, maybe may stunt khaki dig, not in no braids or no lace front yaki wig. mic in my hand. Calling out your phony niggas that be biting my man. Keep it up, you know I'm fed up. Now it's time to go head up. I guess I was born, naturally born to leave it torn. Calling out the cards, you best to get it reformed. Don't try to innovate. Wait, you still won't sound great. Talking about you got a new style, how'd you dig in my crate? Well, I'm here to tell you that I'm busting your bubble. You in some hot water, should I say some lyrical trouble? There's a door, see your way out, talking about you play your bullshit. Time after time, I caught your bluff, you need to quit. Just chill, come on, I know your next move. When my troops get together, it's like grand groove. I prove a point, make some stands in this hip-hop claim. Staying true to the roots, four elements to comprehend. You still don't get it, reality is a must. How many like you must have seen when you fall below A-B-E-R-A-G-E? It's like niggas ain't hungry no more. What's the deal? Keep it ill. Who will you switch to be a remainder? How many like you must have seen when you fall below A-B-E-R-A-G-E? It's like niggas ain't hungry no more. Get it together, cause sooner or later. Who will you switch to be a remainder? Hey yo, my suicidal team, you prevent defense. I'm in your area, causing pain, repent. What? Can't stand MCs that don't equal to nothing. Come on, your front and rhyme against us. It's like whooping, I stay blunting. While my rhymes get charged, while your bitches out there front and giving up the dying cause. Get off that, that tip you living my foul. With your phony ass rendition on how you freestyle. Yo, no, skills, you lack the definition. I've risen, threw off that wax that you're giving. What else? Through your vocals, your delivery be so-so. And promo choco up on your group because you're awful. Change your quote because we coming for your throat. Erase what you wrote, cause mentally you can't cope. Nah, wasting time with no motivation. Scared to bust a microphone with innovation. I know your type is strictly out for the cash. In this underground industry, you just won't last. I said you just won't last. How many like you must have seen when you fall below A-D-E-R-A-G? It's like they we no more. What's the deal? To make it combine, it'll take seven horns before I start my rhyme. Now it's 21 beats made up at the same time. I was bound to shine, haters get left behind. Ain't no time for that, stamp my name on rap. Perhaps you hear the words from my next sequel. Part two is something for the people. I'm still number one. I'm number one. Ha ha ha! years the pioneer. Deliver action thrillers that explode in your ear. Compensate for all the ups and downs in my career. Stop the small talk, my focus remains clear. Should've won the Nobel Prize for thoughts and ideas. Critically acclaimed, while some of y'all cats in the game for fame. Fame lives in my name, P-Rock, it's simple and plain. Check it, simply stressing this, soon to start chin checking, kid. God protected, so I'm selected to orchestrate the next great and create and contemplate the world's fate. PR the heavyweight, put these thoughts in your mind while we on the top. You can tell I'm still on it by the way I rock it. Full swing, introduce the 98 product. Niggas talk to gossip, but they ain't got shit. Fling bangers bumping filth in your deck, in your deck. Gutter speak till they crack, till they crack. Looping up them snazzy. Fling banger, fling banger. Looping up them snares. Wanna flip, we take them to war. Looping up them snares. FTC 950-99. Vedo lo spettro del rispetto, l'hanno ucciso, adesso cerca il mandante. Radar per la strada, l'assassino è latitante. Fra le tante mandre, ognuno è comandante. Il più grande maschera le vesti da infante. La tante fatti le dovute vasche a nuoto. Impara dai racconti dei vecchi seduti attorno al fuoco. Si tira avanti Buzz, le sto vivendo fasi, trattenendo sfasi, sto portando scrausi con la smania degli applausi. Ma si stancheranno se li nausei, resi reduci dai metodi più che dai casi. Sono passati sugli insegnamenti dei sapienti, senti sentimenti spenti e concorrenti deludenti. Se non riempi le inopportune lacune, nonostante l'acume è facile perdere il lume. Piume quel che siete dinanzi al soffio dei saggi, andate pure alle feste vestiti come a fare i gaggi. Karate Kid, wannabe, Daniel San, cadi ai collaudi se non caghi, mister Miyagi. Volti nuovi, intenti a tirar fuori ciò di cui disponi, ma più ti esponi e più ti rompono i coglioni. Presunzione al pieno, umiltà zero, un totti crew e b-boy. Mangiati a colazione da chi ne sa più di voi. Per chi fa brutto col fantasma della soap opera, soap opera, Lord Bean, street opera, Lord Bean. Questa è una per i veri kings, l'opera di strada per chi merita i suoi crediti. Per chi non rispetta, per chi non l'accetta, per chi non ne sai, si crede in betta e vendetta. Lord Bean, questa è una per i veri kings, l'opera di strada per chi merita i suoi crediti. Per chi non rispetta, per chi non l'accetta, per chi non ne sai, si crede in betta e vendetta. Do I have the power like heat, man? The crack a whack as he said, open like a pecan dam. My name should become Sam, but I prefer the Grand Royal for this gym. I put the heads out, the guns I use the pop let out. Hey son, I suggest that you head out. I total, we made, scratch up like flakes, I won't break. I make more tour. Got more shrimp than King Kong. I'm worldwide. I'm interviewing Ricardi Tom. I'm on now. Live at 12 and so dope. All the way to 4 o'clock, there's no soaps. I'm able to rock the mic. Nice and stable is the chance that you might see me on cable vision. Showtime, my HBO with the flow. Getting more play than Rambo. Hey, yo. Hey, you know. Party people, rappers out of control. Rappers out of control, definitely fucking out of control. Rappers out of control. Rappers definitely out of control. Eccoci reduci da questo back to back. Vi si preannuncia fin da subito che non faremo la playlist per questa parte, quindi assicuratevi, se avete uno smartphone, di scaricarvi Shazam per scoprire i titoli. Anzi, fate una bella cosa, fatela voi la playlist sotto nei commenti, vi mettete lì e costruite la playlist. Uno era Bob Geldof. Uno sicuramente era Bob Geldof, sì. L'ha messo te. Quello è il primo che ha messo. Il primo ha messo. Dobbiamo salutare? Si saluta la Virgi che è a Tokyo. A Tokyo la Virgi, un salutone. Che lavora duro. Lavora duro a abbracci, Tokyo. Abbracci, abbracci. Sì, sì. Un abbraccione Virgi. Torna presto a trovarci. Un saluto anche alla Bene. Che è qua con noi. Che è qua con noi, che ogni tanto appare in quel di Firenze, poi ritorna a Londra, poi quando è estate riviene, poi torna, poi per Natale viene, perché a casa sua per Natale fanno da mangiare per 10 giorni di fila, giusto? Anche ora, qua basta che torni la Bene a casa e si mangia. Bene, noi siamo quasi in chiusura, però abbiamo un altro quarto d'ora scarsino, e vi buttiamo il mix, visto che stasera Tommy non c'è, come vi avevamo preannunciato, abbiamo il pilota automatico di Tommy e quindi vi facciamo ascoltare giusto l'inizio di Pupati Plays Oldies, l'ultimo volume che non mi ricordo assolutamente che numero è, però ecco, giusto ve lo suoniamo, così vi suoniamo l'inizio, così vi invogliamo a andare su ragnampaisa.net e ve lo scaricate, e oltre a questo vi scaricate anche tutti gli altri volumi, basta che andate su ragnampaisa.net e schiacciate sul menu mix o mixes, e ci sono tutti i nostri mix che facciamo esclusivamente per il nostro bel sito. Rimanete con noi fino alle 22:30 e ci sentiamo lunedì prossimo. Questa era Gran Paisa. and said I should not have no fear. But now you've left me and gone, what have I done? Your love would grow, but darling, you never love, oh no. Why, oh why, we fell apart, what have I done? Dearest one, if you'd forgive me, I'm still waiting. I'm still waiting. I'm still waiting. I'm still and hasted away, for they took hold upon them, faint as a woman travel. Thou breakest a ship of Zion with east wind, as herb and oak of east seen the city of the Lord of hosts. In the city of our God will I establish it forever, ever, ever. We have truth, all the loving kindness of our God in the midst of thy temple. According to thy name, O God, so the praise unto the ends of the earth. Righteousness in the hand of righteousness. Move ya, move ya, for the dread of mafia. State systematically in exact terminology. What you come about? Wally, where you teeth the man's skirt for? Wait, you know what you're saying? Me, a mafia. So you say, I'm on a mafia. Me a mafia. I'm on a mafia. If I egg me in a the red, if I dread it upon me head. Me a mafia. I'm on a mafia. What are you laughing about? Wait, I the skirt that I want, eh? Go away. I'm on bets about that rasta. So what you want about this? I want to lick out two of your teeth for that. Right now you got to be a mafia for do that still, you know. How you come to be a mafia? Well, right now, you have to go away. Up there. I'm on a mafia. Wait, why take care of the walk to the day is come for night when my heart's arrested. After the darkness, day come for life infested. I'm on top of one such infested, y'all. When I see y'all, now he's out to jump for wine, even in our places. All that needs may be numbered, and all we were numbered, yeah. Yeah. When I kill a ground with four lines of bone, we don't like it, don't they, yeah. Say, how can I heart till you got to be round when I come down with this sound? Yeah. When I can obey the commandments in mind, you got to understand. Kind of good for your intuition, yeah. Kind of what would change your plan, yeah. Blind man, this is where I stand. Thou shall not kill. Yeah, from the scratch I shall win, y'all. Thou shall not steal. Man and man, the how will feel. Thou shall not be a false witness against thy neighbors or thy enemies, yeah. Thou shall not covet thy neighbors. For his calf, for his ox. Always ounce, and even if you got the grounds, so don't be no mouse, please one eat all the house, yeah. Why he got no grounds, so don't come to spouse, y'all. Come on, be round me, baby, bend you way round me, dad. Eldred. Alright, when we talk about love, what we mean about love? We didn't know love, we didn't know play this way, though. Works for us. It's something wrong to I, man. After I mad, I just check a wobia woman. Take I man craft this case, yeah. You with the wobia man, I'll tell her. Say, judge man, we are gonna try I and I. See. Beam science, I and the wobia man science. Who are star? Yes, who are the star? Who are the stars? Who are them? Who are them? Who are them? Who are them? Who are them? Who are them? Who are them? Give a gun. Who are them? Session. First, let me introduce myself. My name is Judge I Don't Care. Here liar, read a poem you have behind us. What is poem you have to do? I take a song. In the days of old, when man was bold and women were not invented, man take his cocks and hit it in rocks and born quite contented. But in the days of soon, when Neil Armstrong discovered the moon and girls was duly invented, man would not take his things and stick it with pins, because man could never be contented. What's here, thing? For this your rooster is the king of all rooster. My man's your fish and this your rooster, and I mean no booster. This your rooster, no need no booster. Back up your troubles in your wool kit, man, but do me a smile. Watch my style a while, because I'm so versatile. The blue daddy blue.